scorso, cioè, ci siamo divertiti, mi risate. La brava è fatta. Ho capito. Ascolta, e vabbè, dai, già ci sentiamo alla radio, se no anche con WhatsApp, eccetera. Già me lo ricordo, però, dai. Ok. Facendo orario, dopo devo uscire, devo andare a prendere mia figlia che è andata al mare e arriva dove ci sono gli autobus lì dietro Santa Maria, come si chiama quella via. Papà. Ok, dai, io uscita una consegna e ci sentiamo. Ok. Via, ciao Antonio, già ci sentiamo, non ti preoccupare, ciao ciao. Ciao ciao. Chi è, chi è? Ciao, ciao Carlo. E ciao Giulio. Beh, come va? Mi facendo quattro chiacchiere, e tu come mai a quest'ora? Vabbè, stavo guardando il computer, stavo guardando e ascoltando. Sì, con Antonio stavamo facendo quattro chiacchiere. Poi prima è entrato anche Claudio, ma mi sa che c'aveva roba in preparazione ai fornelli, quindi si è spostato. Come va Giulio? Bene, bene. E tu, uguale? Sì, sì, tutto bene, grazie. Quella roba che mi avevi dato, ho mandato le foto e praticamente in base al numero, diciamo, andavano bene, ma non c'era una copia esatta, perché in quel tipo di radio li devi mettere tutte e due uguali, identici, capito? Lì era uguale la sigla 2312, ma l'amperaggio era differente tra uno e l'altro, capito? Però lui già li ha procurati, perché mi ha mandato un messaggio mi ha detto che li deve cambiare tutti e due in coppia. Ok, ho capito. Vabbè, pazienza. Va bene, nello stesso, non c'è problema. Grazie, comunque già li conservo io, nel caso se ti dovesse servire qualcosa sai che ce li ho io, capito? No, a me non mi servono, no. Non ne ho, io ho apparecchiature che montano quel tipo di finali lì. Va bene, magari o se servono a qualcun altro, tanto io li ho dentro un cassetto e li tengo lì, prima o poi serviranno. Sì, potrebbe servire a qualcun altro, comunque. Vedi tu poi, se te li vuoi tenere, conservarteli, non si sa mai, magari ti potranno servire più in là, tutto è possibile. Oppure se ritieni che li vuoi dare a qualcun altro, fai pure, se c'è problema. Già li conservo io quelli, tanto lo spazio che prendono è poco e c'è tutto un cassetto dedicato alle cose della radio giù in garage, per cui metto tutto là, non si sa mai che quando servono, se non a me, a qualche amico, eccetera, già si riutilizzano. Ok, beh certo. Va bene così, comunque. Buone notizie, stavo ascoltando, so che quello è individuato il guaio, sì, perché, vabbè dai, non ti dico niente. Sì, adesso ha detto che già la metterà a posto e nel giro di una settimana ha detto come a tempo la richiude, la prova, prima di chiuderla già mi manda anche un video di come funziona e poi quando ci ripasso in quelle zone lì me la ritiro, capito? Sì, ma stavi dicendo che lui ti ha detto che è stata un po' manomessa, ma io quello lo sapevo già, so anche che la manomessa, per cui va bene lo stesso, dai, comunque già interessante che lui riesca a sistemartela. Sì, esatto, hanno detto che mi ha detto che hanno fatto un bel po' di pasticci là dentro, dice evidentemente l'ha toccata gente che non sa dove mettere le mani, perché era un bel po' incasinata. Comunque lui ha rimesso a posto tutto, adesso deve cambiare i finali e poi dovrebbe funzionare. Sì, in effetti, sì, lo so, qualcuno ci ha provato, persona non competente, per cui vabbè, comunque il tentativo alle volte può anche andare bene, ma non è andato bene e chiaramente allora bisogna che vada in mani più esperte. Esatto, no, già da quello che mi ha fatto vedere, quello che mi ha mandato, praticamente già mi sembra una persona competente, questo sa la sua, capito, e c'ha un laboratorio con un sacco di apparecchiature, insomma, già mi sembra ben attrezzato pure. Eh beh, certo che sì, se te l'hanno consigliato, evidentemente è una persona che lo conosce, sai, che è conosciuta. Io non lo conosco, però se te l'hanno consigliato vuol dire che sono sicuri di quello che ci hanno detto e delle informazioni che ci hanno dato, e se va bene così. Tu stesso mi stai dicendo che è attrezzato, per cui va bene. Sì, questo mi ha garantito che lo mette a posto, capito? E ogni tanto mi aggiorna su quello che ha messo a posto, quello che non andava, c'erano collegamenti fatti proprio sbagliati. E infatti alla fine ho messo tutto a posto, però dice usciva con 8 watt, dopo un po' però scendeva a 5-4 watt, perché praticamente si sono compromessi i finali e quindi quelli, dice, adesso quando li sostituisco li devo sostituire tutti e due insieme e ci vogliono i pezzi originali, perché se metti altri diciamo finali non funziona bene. Ok, beh, in genere si mettono nuovi tutti, anche il prefinale possibilmente, per quanto ne so io, so che quando vanno sostituiti i finali si dovrebbe mettere anche il prefinale, così almeno per prudenza, capisci? Sì, esatto, ma sicuramente già mi fa tutto lui. Mi ha scritto così, mi ha detto: come termino ti faccio un video di come esce la radio e te lo mando, e poi chiudo tutto, ti mando la foto della radio chiusa, funzionante, e così posso passare a ritirarla. Certo che sì, va bene, e già da quello ti fa capire che è una persona seria, solo il fatto che ti ha detto che ti faceva un video per accertarti appunto di quello che ha fatto, per cui va bene, diciamo che si fa così, insomma, ecco, una persona seria fa così, fa anche questo. Sì, esatto. E caldo ne hai dalle tue parti giù? No, qui si sta benissimo, non c'è problema, qua va bene sempre, sia in estate che in inverno, qualsiasi stagione qui siamo sempre tranquilli. Il caldo c'è fuori quando ti siedi in macchina, eccetera. Anche io a casa qua ho tutte le finestre aperte, sono al terzo piano, per cui già tira un po' di aria. Adesso c'è tutto aperto, ha rinfrescato. Il caldo era dopo pranzo non potevi aprire perché c'era quella cappa di caldo. Adesso invece sta andando un po' l'arietta, perché vedo anche i rami muoversi, vuol dire che sta tirando un po' di venticello e mi sembra anche fresco. Sì, infatti c'è un pochino di venticello, è vero, e quello contribuisce a rinfrescare un pochino. Sì, perché nelle ore di punta è meglio che tenere le finestre chiuse, perché sennò il caldo, soprattutto dalla parte dove penetra il sole, ti fa la stanza che è come un forno, per cui è meglio tenerle chiuse. Ma noi qui già siamo attrezzati, ho le finestre anche con i doppi vetri, per cui non sono così diretti i raggi solari qua. Ah, esatto, e allora con quelle si è a posto, quelle frenano un po' l'azione del sole e riscaldano meno il vetro doppio e così. Io invece ho le finestre classiche, quelle in legno col vetro, e se facciamo i lavori del 110%, ma se non bloccano tutto, che noi abbiamo già avviato tutte le pratiche, abbiamo fatto le riunioni, abbiamo approvato, dovremmo fare un'altra riunione, ma è saltata e quindi l'amministratore ancora non ci ha fatto sapere niente, anche se eravamo rimasti d'accordo che avrebbero dovuto iniziare intorno a settembre. Adesso vediamo se se ne fa qualcosa o meno, perché il governo pare che sia diciamo, orientato a tagliare tutti questi fondi, perché con la crisi non ci sono più soldi, insomma. Ok, ciao Cla. Sì, beh, sì, l'avevo sentita quella notizia, che il governo ha finito i soldi e dunque il super bonus non sarebbe stato più finanziato. Naturalmente chi ha già fatto la domanda e chi era già la pratica avviata, quella chiaramente la liquidano, è ovvio. Lo so, poi sono abbastanza informato, mi fa anche mia figlia questi lavori, per cui come tecnico mi fa anche mia figlia, pensa un po'. E allora già sai come vanno queste cose. Sì, noi abbiamo già avviato tutto, abbiamo dato l'incarico anche alla ditta e tutto quanto, e ci avevano fatto già tutto preventivo, le cose, avevamo fatto la scelta del colore degli infissi, tutto quanto, per cui speriamo di rientrarci, però saprò qualcosa alla prossima riunione, perché purtroppo una è saltata, perché non c'erano i millesimi, e quindi l'amministratore ha detto senza quel numero lì ci sono molte assenze, non ci sono le deleghe, quindi rinviamo tutto e ci farà sapere adesso. Ok, sì, beh, certo, va bene, avanti Claudio. Sì, va bene, buonasera a tutti. Mi sono allontanato un attimo, caro, già te l'ho detto che c'è roba a fuoco, c'è un fritto. Va bene, voi ci avete 110, super bonus, il mio super bonus è la tasca, tutto quello che faccio lo devo tirare fuori dalla tasca. No, io la prima cosa che ho fatto, gli infissi tutti nuovi con doppi vetri, quelli di facciata sono addirittura vetri antisfondamento, vabbè che la notte si chiudono gli sportelloni, quindi non è un problema, però quelli costano un barca di soldi. Mettete i doppi vetri che riservano molto dal sole, capito? Scalda meno. Qua c'è un fresco, altro che è caldo. Ma gli butto la maglietta, proprio fa, è fresco. Poi ci sono 28 gradi, dentro ce n'è 21, infatti ho 7 gradi in meno. Molto bene. Tutti via sono andati a casa. Sì, Antonio era al lavoro e l'hanno chiamato per una consegna, quindi si è allontanato, è entrato Giulio, stavamo facendo quattro chiacchiere e adesso hai ripreso tu, però altre persone non ne ho sentito. Carino, io so, 7:15 sicuramente, vabbè, non so se sta cenando, ha già cenato. Va bene, vabbè, bisogna andare avanti, caro, bisogna andare avanti Giulio. Certo, bisogna andare avanti, ovvio, ci mancherebbe, guai se non si andasse avanti, così è, un giorno con un dolore, un giorno con un altro e tiriamo a campare. Comunque si tira avanti veramente alla grande, ormai siamo abituati e non c'è problema. Avanti ancora Claudio, cioè Marco, anzi picchia, Carlo. E allora, niente, si deve per forza andare avanti, e se no guai, chi si ferma è perduto, dice il proverbio. Sempre avanti, capito, testa alta e sempre avanti, e se no guai. E niente, io ancora ho un po' di anni da fare, al lavoro, eccetera, quindi non è che mi rattristo, dai, vuol dire che se si riesce a fare vuol dire che c'è ancora la voglia, la forza di fare e di fare anche tante altre cose, dai, piano piano. Certo che sì, la voglia ci deve essere sempre, soprattutto quando si è giovani ancora, però anche da anziani è meglio muoversi, dai, è meglio muoversi, perché sai meglio, sono più che convinto che sai meglio, se uno si muove sa meglio, se invece rimane sedentario allora le cose si complicano un pochino. Avanti Claudio. Sì, è così, dobbiamo muoversi, siamo a casino. No, beh, io sono sempre in movimento, messo domani. C'è un altro po' di cosette da fare, che si è troppo caldo, sto facendo la mattina, sera tardi, adesso ho solo il metodo, attacco l'innaffiatore a buttare un po' di acqua al prato, se non si secca tutto, e mi sciacquo la macchina, e poi si cena un po' di fresco, perché qua la sera c'è un fresco allucinante, Carlo, sta benissimo. Io dormo con la trapuntina leggera, finestra aperta, trapuntina leggera, perché ci vuole, soprattutto la mattina c'è un bel freschetto, poi la sera, da quest'ora in poi, adesso dall'ora in poi, ti si rifugi e veramente si sta molto bene. Sì, due giorni, oggi e domani, e poi rientro di sera, per cui c'ho anche dopodomani mattina, quindi quando posso ogni tanto accendo la radio. Giorni scorsi, due giorni fa, di sera tardi, ma erano le 10, ho provato ad accendere e c'era Roberto, ci siamo fermati a chiacchierare, c'era Gianni il profeta, dai. E abbiamo fatto una chiacchierata così una mezz'oretta, poi ho dovuto chiudere perché la mattina mi dovevo alzare presto. E niente, stamattina ero a pranzo fuori con dei colleghi e quindi non ho acceso, sono rientrato che erano le 4 e 4 e mezza pure, e adesso avevo un attimino, adesso si sta bene, c'è un bel fresco. Sì, hai ragione Claudio, di giorno fa molto caldo, la notte però scende parecchio la temperatura, e la mattina presto, se hai finestre aperte o chiudi oppure ti devi coprire perché c'è un bel fresco. Quartiera, qua siamo quasi 400 metri, quartiera, però si sta bene, l'estate è favoloso, l'inverno chiaramente, riscaldamento acceso, se non muori, la mattina qua quando io apro, che mi affidava al lavoro, mi piace alzare 6 tutte le mattine, mi alzo anch'io, preparo la colazione, che si prepara, inizio a aprire, fuori tutto ghiacciato, tutto bianco. Quindi molte mattine devo preparare anche la macchina prima di partire perché sta ghiacciata, capito? Però l'estate c'è un fresco allucinante, sta bene diciamo, ma sono già qua un anno, ho fatto ad aprile, mi sono abituato e ti dico che sia la temperatura interna che esterna non posso lamentare. Non posso entrare in un disagio come un po' tutti per andare a Sassari e prendere la macchina. Ho la moto e uso molto l'estate, però in compenso si sta bene. Vai Giulio. Ok, sì, riprendo e vi saluto, però dai, che devo fare una scappatina da mio fratello che mi ha telefonato se potevo andare, forse volevo organizzare una cena stanotte, vediamo, dai. Bravo, ciao Carlo, grazie per la chiacchieratina. Ciao Claudio, ci sentiamo, ascolto il finalino e poi chiudo, dai. Riprendi pure Carlo. Ciao Giulio, buon divertimento, allora dai, ce la risentiamo un'altra volta, grazie anche a te della chiacchierata. Riprendi Claudio. Ciao Giulio, buona serata, buon tutto, al prossimo, ci sentiamo, ciao ciao. Giorni scorsi ho sentito, non mi ricordo se era una mattina o una sera, che c'era un sacco di propagazione dal nord Italia e non solo, e anche fuori dall'Italia, ma c'erano alcuni, ho acceso un attimo ma non sono entrato, e li sentivo parlare con Genova o con l'Emilia Romagna o con la Toscana, e addirittura mi sa che c'era anche Giulio, l'ho sentito, e con collegamenti tutti con 4-5 watt, ma si sentiva benissimo. Io purtroppo ero in da Farate e non sono potuto entrare, non so se ti è capitato di sentirli tu Claudio. Sì, quasi 10 entrano sempre, l'altro giorno stavamo facendo un questione, c'è stato un break a 9:20, figurati, pensavo fosse qua se servisse a questo Riccardo che entra spesso con le 10 da provincia della Puglia, lì dalla Puglia, e arrivano forte, arrivano molto bene, poi insomma, già c'è preparazione, poi è un po' più tranquillo, ma perché c'è questa bassa pressione, e quindi scorsi c'era veramente tanta roba. Sì, ho sentito, i giorni scorsi c'era un chiasso allucinante, non faceva neanche a starci più di tanto in radio perché c'era troppo chiasso, addirittura entravano segnali forti dall'FM e disturbavano chi era in AM, per esempio. L'FM è allucinante. L'FM è allucinante, tedeschi, inglesi, da tutte le parti, però l'Alta Italia in AM arrivavano molto bene. E vabbè, tempo suo, adesso inizia. E vuol dire quando c'è propagazione li salutiamo, come si dice, e basta, e finisce lì. Esatto, sì, ma è giusto, molte volte dai qualche controllo, un po' di saluti e via. Una mattina lo stesso sono entrati in FM, c'era questo segnale forte, ho cambiato in FM e c'era uno che faceva chiamata dall'Olanda sul 10, poi è entrato anche Natalino, gli ho detto passa che siamo in FM e sentiva anche Natalino tranquillamente. E Natalino adesso sta uscendo con 4 watt e lo sentiva benissimo e questo chiamava dall'Olanda. Sì, ma arriva benissimo Natalino con l'antenna nuova anche con 4 watt. Arriva bene. E in attesa di rimettersi la stazione base. E vabbè, adesso ho deciso così, ma bisogna rispettare le cose KK. Passa il tempo, io tra un po' lo stesso devo uscire e devo andare a prendere mia figlia che se n'è andata al mare a Platamona e rientrano col pullman, siccome c'è ombrellone eccetera, mi ha mandato un messaggio, va, mi puoi venire a prendere, quindi ogni tanto devi fare anche il tassista con i figli. Lui non c'ha la patente, tua figlia piccola. C'ha 16 anni, mio figlio già ce l'ha, lui è grande, ce l'ha, come aveva fatto il diploma e la patente, però adesso ne ha 24, lui già è grande, ma mia figlia ancora non è in età, c'ha 16 anni, ne fa 17 a novembre, quindi ancora un paio d'anni, poi patentiamo anche lei. Ancora sono ragazzi, la mia ne ha 35, sì, anch'io, ho fatto il diploma e avrò regalato la patente. 18 anni, patente macchina, tra l'altro, patente la macchina. Vabbè, adesso è tranquilla, serena per i fatti suoi, non c'è problema. E vabbè, vedi anche io, adesso aspetto un po' che chiudi tu, poi mi siedo un po' in veranda, prendo una boccata d'aria. Ho fatto un bel tè freddo, ma adesso ne farò un altro, tanto adesso arriva mia figlia, quindi. E poi si cena, per me è da 9, adesso le 9 ceniamo noi, più presto ceni. No, quando sono a casa che sono di riposo, generalmente se non ho la mattina anche noi, intorno alle 9, a volte anche le 9 e mezza, perché con le giornate lunghe, diciamo, sei portato a far la cena più tardi, d'inverno invece intorno alle 8, d'inverno perché fa buio da presto, capito? Quindi più o meno l'ora del triangolo è le 8. Sì, anche noi, io sono le 8, d'inverno, 8 più un quarto, insomma, dipende, ma l'estate, quindi l'estate, ancora non siamo l'estate, ma comunque, le giornate sono lunghe, non ti metti a mangiare, a cenare, che c'è ancora sole, quindi sono per mezza così. Ho messo attenzione di accendere il fuoco e fare un po' di arrostire un po' di carne, ce l'ho. Ma mia figlia ha detto che non la voleva, e quindi adesso vediamo quando arriva cosa facciamo. Va bene. Si fa quel che si può. Non lo so io stanotte cosa, adesso vedo quando rientra mia figlia, ma in frigo già c'è un po' di tutto, se no un'insalata, una fettina girata e via, un po' di frutta. E a volte ceniamo veloci, cose pratiche, insomma, dai, e non stiamo lì a fare tante, sempre cucina complicata, quello quando c'è più tempo si fa. No, ma pranzo soprattutto io e mia moglie siamo sempre soli, facciamo così. Facciamo una bella insalata di riso, una bella insalatone, noi mangiamo a pranzo, a volte sì, ma sempre che ho accompagnato un po' di salata, se lo volevo decidere, che sono buonissimo. E via, sto bevendo tanti litri d'acqua, non sto toccando nulla, manco c'è il frigo del caviglia che è pieno di roba, di zucco, non sto toccando niente perché con questo caldo di schifo l'anno c'è bisogno di acqua, capito? Acqua, acqua, acqua. Lo so, no, io stanotte già mangio poco perché oggi ero a pranzo fuori con dei colleghi, abbiamo fatto un piccolo spuntino, ero all'Eden Beach dopo verso Marina di Sorso, dai. E lui ha fatto sardine alla griglia, ha messo anche le anguille che mi piacciono di sapore, ma troppe spinette ci trovo e preferisco invece altri tipi di pesce. Ma poi già c'era altra roba da mangiare, mi sono trattenuto lì sino alle 4, non ho esagerato col bere perché c'era troppo caldo, se no lo fai tutto in sudore. Qualche birretta fresca ci siamo bevuti, di 4 chiacchiere, e poi verso le 4 e mezza sono rientrato. Sì, ma è così, si sardina e abbiamo fatto la poco nel qua, adesso penso la prossima settimana, facciamo di nuovo, adesso è buono, molto buono, però io non è che digerisco molto, ma mi piaccio e quindi arrosto così le faccio, le robe. Già va bene. L'importante è fare ogni tanto qualcosa, dai. Infatti, no, noi perché eravamo in 10 praticamente, alcuni colleghi che hanno avuto la promozione, e tra questi io, e allora un collega che ha la casa lì al mare, dice ce ne andiamo là, siamo tranquilli, e lui ci vive tutto l'anno perché abita con la madre, però hanno la casa grande, quindi la mamma se ne sta in cucina, noi eravamo dall'altra parte dove c'è il giardinetto, c'è un pezzo di prato verde, c'è un piccolo frutteto pure, infatti mi ha portato via un po' di nespole belle, grandi, perché lì fanno molto grandi, quella zona. E niente, giusto per fare qualcosa di diverso ogni tanto, almeno adesso che ne stiamo uscendo da questa pandemia, ogni tanto qualche piccolo incontro così con gli amici già fa piacere. Stiamo uscendo, ma mi sa che sta aumentando sempre, non so, tu guarda, sei venuto a questo posto che c'ho io, ce ne sta gente in giardino e c'è la veranda che è 12 metri, la voglia. Pure visto come mi sono realizzato, c'è la telefonanza di dove c'è il BBQ, quindi arrostisco lì e se si mangia fuori e tutto. Mi ha detto, vabbè, se da tanto non ci vieni, ma ho messo tutti i salottini, quelli tutti in vimini, sto alla veranda, poi nell'erba c'è il tavolo sempre in vimini con i cosi, con i, come si chiamano, quelli sgabelli, proprio per andare lì o cenare lì, insomma già sono organizzato, dai, già va bene, ma ce ne sta di gente, tempo ci vuole, voglia. A voglia, tu problemi di spazio non ne hai lì, a voglia, c'è quella bella veranda grande e quindi lì puoi fare anche il distanziamento se vuoi, perché lo spazio ce l'hai, no, e vabbè, poi ogni tanto magari con la famiglia anche già va bene, lì stai da Dio, non disturbi nessuno, puoi anche cantare, classi, una tarda notte lì e chi ti sente. Non è che puoi fare quello che ti piace, no? Nel senso che sono rispetto per rispetto, perché hai visto, fianco a me c'è il mio vicino, sopra più in alto c'è l'altro, comunque già siamo tutti tranquilli e sereni. Qui il posto già ne ho, mi metto parecchi anni nel giardino, stanno 50 persone, in veranda una ventina ci stanno tranquilli, c'è anche un bel fresco, adesso soprattutto a questo ti siedi, aperitivo e tutto, adesso vediamo, questo sarà. L'anno scorso a Natale non ho fatto niente qua perché eravamo invitati, quest'anno tocca a me, quindi sarò con tutti i miei parenti, e già ce ne sarà faccio, sono già all'ora, ma ho 20 quasi. Vado a bere una cosetta fuori al fresco e poi preparare la cena. Grazie alle due chiacchiere, grazie di tutto. Tienimi informato per il Saturn. Ok, magari quando vai a ritirarlo avvisami che vengo con te a salutare al vino. Sì, va bene, Cla, già ti faccio sapere. Al limite ci facciamo un salto insieme quando vado a ritirarlo. E da quello che mi ha detto, penso tipo una settimana, una cosa del genere. Se non fa troppo caldo, magari ci andiamo. Perché lui molte volte la mattina è occupato e mi ha detto che preferisce, insomma, che ci troviamo di sera, anche dopo le tre, così. Già ti faccio sapere, sì. E a giorni mi ha detto che mi manderà il video di come funziona la radio e poi così chiude tutto e posso andare a ritirarla. Penso che sia già a buon punto, eh. Sì, ma lui intanto non parla se trova, prima la ricontrolla tutta, prima di chiuderla, fa video, foto, tutto. No, bravissima persona lì. Poi se dove metto le mani, te l'ho detto. Se Gianni non mi ha ascoltato. Mi ha ascoltato, ora fa lui all'inizio, che a quest'ora c'aveva la radio nuova, come sempre l'ha tenuta, perché è una radio nuovissima quella, e poi già mi ci teneva tanto, peccato. Si è un po' incazzato, giustamente, perché sempre alla fine ti si girano le balle, tocca qui, tocca là, e invece se lui dal primo momento che ha iniziato a rispettare nella barretta, sarei mandato e avrei accompagnato io, questa la radio era già bella che è pronta, finita, e in ordine. Va bene, dai Carle, è andata così, pazienza. Ti saluto, un abbraccio e quando vuoi il numero ce l'hai, Carlo, se sei a Sassari la mattina chiamami. Io di solito la mattina scendo sempre a Sassari, prendo un caffè, faccio colazione, poi passo sempre tutte le mattine da Roberto, perché se non mi vede rimane in ansia, se mando mai una mezz'oretta, un'oretta lì e poi me ne risalgo a Sassari, capito? Quindi, se ne voglia chiamami, ci prendiamo un caffè, ok? Salto, volentieri, Cla, già ci sentiamo al telefono, magari ci prendiamo un caffè assieme una di queste mattine. Bene Meda, ce la risentiamo, tanto anch'io adesso ho qualche impegno che devo andare a prendere mia figlia e poi si procede con la cena. Ce la risentiamo, magari se va bene rientro dopo cena se c'è qualcuno. Ciao Claudio, grazie della chiacchierata, alle prossime. Ciao Carlo, grazie a te. Sì, se c'è qualcuno magari dopo riprendo anch'io, vai dopo cena, non metto la così al fresco. Ciao ciao, buona passeggiata, buon tutto. Ciao ciao. Supongo che sì. Io col mino, ecco che...